Io vorrei fare rap, ma io non capisco che mi prende. Uso l'autotune e canto su queste basi dance. Perché quanto vorrei fare rap, dire ogni due parole, entrare nella scena, ma solo per spiegarti due cose. Che questo è, e questo è. Mi piacerebbe molto fare come te, parlare di porri, piazzette, panchine. Ma ho pochi ricordi e zero punchline. E come vedi, non parlo manco inglese. Tu invece sì che c'hai il palato fine e conosci a memoria tutti gli album di Tupac. Ma se ti vedesse chissà che direbbe, che fai testi pacco per piacere alle bambine. Tu ti perdi quello che dico come se fissi il culo alla fico, e pensi che quello che scrivo l'abbiano scritto 20 filosofi. Metti la voglia che sbrodoli, ti lascio nudo ma coprete, e ti passo una foglia di fico che mi fai schifo. Posso andare veloce oppure rallentare, ma mi sa che qui cambia poco. Quindi tu pensa meno che questo non è rap. Quando moriremo qualcuno ci capirà. Da giorno che ho visto nella mia realtà un modo di fare mia la musica. Ho pianto però nel saluto del rap che mi accompagnava in giovane età. E vedo le mani che si alzano qua, urlano a chiunque poi le udirà. Non pensano a chi poi le giudicherà. Senza fissa dimora che pesta. C'è gente che dice che noi tre non facciamo rap, ma il conto non torna perché chi mi ascolta non d'accordo i cliché. Se suono slow style ma più veloce che mai, oppongo la fase lunare, la base fa saltare le fai. Fai come ti pare, se vuoi puoi criticare, ma non mi smontate, tonti voi non contate. Volti stolti da frate, se mi ascolti non ti piace. Se tu lo scemo schifa prego, me ne frego e pace. Quindi non ti preoccupare se mischio un po' troppo, se mi stiro e mi scocco, se primo su techno, sul low, sull'electro, su reading da dancer. Me ne fotti un pioppo, me ne fotto il doppio. Viaggio sopra le righe, un po' in tutti i sensi. Voi depressi, pessi, pizza, porri e piazzetta. Strizza gli occhi un po', aspetta che non critico i tuoi versi, veri versi.